Ave Maria a tutti, di nuovo, carissimi ascoltatori, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio San Giuseppe, in compagnia del più santo dei santi che nel cuore tutti insieme invochiamo, ecco l'inizio di questa nuova puntata dedicata ulteriormente alla conoscenza della sua figura. Oggi sotto la guida della più alta, diciamo così, figura di rappresentanza della struttura del Magistero della Chiesa, che sono i Papi. Ecco, vi accennavo la volta scorsa che nella terza parte della trattazione del libro che stiamo seguendo per cercare di sviscerare un po' la figura di questo straordinario santo, si apre appunto con il Magistero dei Papi su San Giuseppe, più che altro le affermazioni dei Papi su San Giuseppe, le feste che hanno istituito, gli atti, diciamo così, ufficiali, ecco, di culto o di pronunciamento che hanno rivolto nei confronti di San Giuseppe. Poi seguirà un lungo capitolo, che potremmo definirlo un po' mistico, che è appunto la storia delle apparizioni di San Giuseppe. Ci sono diversi eventi, vedremo, che si sono susseguiti nel corso della storia, quindi non ci sono soltanto le apparizioni della Madonna, che sono un pochino più conosciute, ma anche San Giuseppe ha avuto modo di apparire in più di qualche circostanza e quindi di parlare molto molto chiaramente di tante realtà, come vedremo. E dando anche testimonianza, insomma, di sé e della sua presenza all'interno della Chiesa e del suo desiderio, quindi, di essere conosciuto e di essere pregato e invocato, ecco, come strumento importante di ausilio della Chiesa e per la vita della Chiesa. Quindi questo per quanto concerne ecco, la figura di San Giuseppe nella mistica, diciamo così, quelle che sono state le sue apparizioni. Però andiamo subito nel merito della puntata di questa sera. Vedremo che diciamo che gli interventi principali da parte dei pontefici riguardano l'ultimo secolo. Quindi secolo e mezzo, diciamo che da Pio IX in poi c'è stata un'attenzione grande dei papi a questa dimensione e alla figura di San Giuseppe. Prima abbiamo soltanto un intervento, che è quello da cui cominceremo, molto significativo, che è quello di Papa Benedetto XIII. Ecco, sapete che ci sono stati tanti Benedetti nel corso della storia, noi abbiamo conosciuto personalmente per esperienza diretta Benedetto XVI. E allora nel 1700 c'è stato un Benedetto, che è stato Benedetto XIII, che ha fatto due gesti molto importanti nei confronti del culto di San Giuseppe. Il primo è stata la fissazione definitiva della data dello sposalizio di San Giuseppe con la Madonna, che tra l'altro nel rito antico era festeggiato con una certa solennità. Questa purtroppo è un'altra delle cose che adesso con la nuova riforma liturgica è stata persa, il 23 gennaio. Ecco, colgo l'occasione per dire che ho già detto in qualche circostanza che io non sono certamente attestato, questo lo dico per ragioni ovviamente di correttezza, quindi non sono attestato su posizioni, come dire, estremiste per quello che riguarda un certo, come dire, rapporto con la tradizione, però a volte sinceramente lo smarrimento di alcune cose, lo vedremo anche con il 1º maggio, è un peccato. Mi chiedo ancora che cosa possa essere stato dovuto, e come dire, da figlio della Chiesa, pur rispettoso, mi addolora, insomma, ecco, abbiamo visto quando abbiamo parlato del Santissimo Matrimonio tra San Giuseppe e la Madonna, quante fonti di insegnamento, quanti spunti di riflessione ci sono, no? E molto importanti anche per tante coppie attuali, moderne, no? Dentro la nostra attuale prospettiva storica, anche una certa, come dire, relativizzazione, come dire, una sorta di decantamento, dell'ipervalutazione della dimensione sessuale all'interno della vita di coppia in generale e anche per certi aspetti nella vita matrimoniale, no? Se c'è una coppia, che ha vissuto veramente il matrimonio senza, come ben sappiamo, attingere a questa prospettiva, della vita matrimoniale, è la coppia tra San Giuseppe e Maria, senza che questo, l'abbiamo visto pur essendo un'eccezione, inficiasse minimamente il fatto che questo sia stato un vero matrimonio, quindi non un matrimonio a metà, no? Quindi è stato Benedetto XIII a fissare questa data il 23 gennaio, che è stata celebrata, diciamo, fino all'ingresso definitivo in vigore della riforma liturgica del Messale, che, se non ricordo male, ha cominciato ad entrare totalmente in vigore nel 1970. E questo stesso Papa, l'anno successivo, il 19 dicembre, fece introdurre San Giuseppe, il nome di San Giuseppe, nelle Litanie dei Santi. Ora, le Litanie dei Santi sono presenti, diciamo, anche se non sono molto conosciute, anche nell'attuale patrimonio liturgico, diciamo così, della Chiesa. Però nel Rituale Romanum, che era la raccolta, diciamo così, benedizionale con tutti quanti i sacramenti e sacramentali in vigore ancora prima della riforma liturgica, e che grazie all'indulto di Papa Benedetto XVI è tornato possibile per noi sacerdoti utilizzarlo tranquillamente, quindi non in maniera sostitutiva, ma comunque in maniera compresente con i nuovi libri liturgici. E le Litanie dei Santi antiche sono molto molto ricche. C'è questa, io uso entrambe diciamo, le forme, e c'è sempre questa caratteristica, che i riti più antichi erano tutti più lunghi. Ascoltatori carissimi, forse c'avevano più voglia di pregare, o forse c'avevano più tempo di pregare. Magari qualcuno dice che in questo nostro tempo convulso, però taglia qua e taglia di là anche questo. Cioè, non dobbiamo mai dimenticare che la preghiera, è l'anima della vita cristiana, di ogni vita cristiana, anche delle vite cosiddette attive, anche della vita di molti ascoltatori che fanno una vita comune, diciamo così, nel mondo. Ma per certi aspetti anche un sacerdote, come sono io, un sacerdote diocesano, vive fin troppo immerso nel mondo. Sicuro che tante volte mi piacerebbe molto avere degli spazi un pochino più dilatati da dedicare con calma alla preghiera. Invece bisogna starli sempre a risicare con le unghie, anche perché un prete deve pregare abbastanza se non vuole correre il rischio di combinare più guai di quanti ne combina regolarmente. E nelle Litanie dei Santi, lunghissime, perché ci sono davvero veramente un numero sterminato di santi, fu inserito il nome di San Giuseppe. Strano che fino a quella data non ci fosse. Sembra che San Giuseppe abbia seguito un po' la sorte, per certi aspetti, della sua castissima sposa. La venerazione alla Madonna c'è sempre stata, no? Però, come dire, una certa diffusione, sia a livello magisteriale che anche a livello di apparizioni mariane, del culto a Maria, c'è stata soprattutto negli ultimi 2 secoli. Prima, ovviamente, la liturgia, la Madre di Dio, cercate di capire bene, così anche non è che prima non erano devoti a San Giuseppe, per carità, però le forme ufficiali, diciamo così, ed esterne di espressione di questo culto erano effettivamente un pochino limitate. Quindi questi due gesti furono molto importanti da un punto di vista della vita della Chiesa. Oh. Poi c'è stato il grande Papa, grande a mio avviso, molto grande, anche se oggi molto bistrattato, Pio IX, il Papa dell'Immacolata, quindi per quanto mi riguarda un Papa che abbia fatto il dogma dell'Immacolata Concezione deve necessariamente essere un grande Papa, quindi qualunque cosa avesse fatto, fatto questo dogma, per quanto mi riguarda il giudizio sul Papa è bello che concluso, però... guarda un po', proprio nella stessa data in cui non esattamente nello stesso anno, ma nella stessa data, cioè l'8 dicembre, in cui egli stesso ha stabilito doversi celebrare solennemente la solennità dell'Immacolata Concezione, riconosciuta come dogma di fede, cioè l'8 dicembre del 1870, in una situazione drammatica per il pontefice, che ricorda la storia, se lo ricorderà, perché il Papa era prigioniero nel suo palazzo Vaticano, assediato dalle truppe piemontesi. Nell'enciclica che abbiamo già avuto modo qualche volta nelle puntate precedenti di intercettare, che è la Quemadmodum Deus, dichiarò, nominò San Giuseppe patrono della Chiesa universale, con atto formale e ufficiale. E soltanto alcune settimane prima questo evento così significativo, c'era stata la breccia di Porta Pia e la presa di Roma da parte delle truppe piemontesi. Attenzione che in questo stesso giorno, la storia ci racconta che i fedeli di Roma, che avevano assistito alla cerimonia solenne con cui fu promulgato questo titolo particolare, e forse non vorrei dire una sciocchezza, ma sicuramente uno dei più importanti, quello di patrono della Chiesa universale, anche San Giuseppe, anche scusate, San Michele, il mio carissimo San Michele, è invocato come protettore della Chiesa, però è invocato come tale, non c'è nessuna pronuncia magisteriale che lo, quindi questa invocazione di origine devozionale. E poi essere protettore non è la stessa cosa di essere patrono universale, quindi patrono universale vuol dire che tutta la Chiesa sposa di Cristo, e poi vedremo perché, è stata posta sotto la tutela di San Giuseppe, e questo con atto pubblico e solenne di un pontefice. Ecco, questo privilegio ce l'ha soltanto San Giuseppe. Contemporaneamente a questa cosa, purtroppo, i fedeli di Roma che avevano assistito vennero maltrattati e insultati all'uscita dal Tempio Santo in cui questa cerimonia si stava celebrando. E addirittura la stessa notte, quella stessa notte, quindi pensate quanto si è arrabbiato il demonio di questa cosa, sotto le finestre del Vaticano alcuni personaggi inquietanti gridarono a morte il Papa. Quindi quando succedono queste cose, io sono certo che gli ascoltatori sono molto sapienti, e uomini e donne di fede. L'esperienza ci insegna che abbiamo fatto arrabbiare qualcuno. Quindi Pio IX ha fatto arrabbiare un po' il demonio, che si è vendicato in questo modo. Quindi tra San Giuseppe e il demonio non corre molto buon sangue, ecco, a quanto possiamo capire, no? Ora vi racconto però io un piccolo aneddoto. Questo è un aneddoto che poi prendetelo per quello che è, però per farvi comprendere anche come nel corso della storia possono cambiare alcune sensibilità, e anche, come dire, per fare un'analisi comparata, serena. Al Beato Pio IX fu proposto di inserire il nome di San Giuseppe dentro il canone della Messa. Cosa che poi avvenne, lo fece il Beato Giovanni XXIII, poi lo vedremo, e recentemente l'attuale pontefice ha ordinato tramite motu proprio che il nome di San Giuseppe sia aggiunto anche nelle altre tre preghiere eucaristiche del nuovo Missale elaborate dopo la riforma liturgica. Quando lo proposero al Beato Pio IX, questo per far comprendere, ripeto, i mutamenti dei tempi, voi sapete che tuttora oggi, La questione liturgica è abbastanza bollente, abbastanza rovente, ripeto, spesso trattata con eccesso, secondo me. Ecco, però indubbiamente è una questione che va trattata. Sapete cosa rispose il Beato Pio IX quando gli fecero questa proposta? Io ci sono rimasto e lo sentii dire, se non ricordo male, dal professor Roberto De Mattei, ma non ci metterei la mano sul fuoco durante una conferenza, non ci metterei la mano sul fuoco. E disse queste cose. Scusate, che cosa devo fare? Devo mettere il nome di San Giuseppe nel canone romano. Lui rispose, ma io sono solamente il Papa, non sono Dio che posso toccare la liturgia. È un'espressione, come dire, è un'espressione chiaramente forte. Per noi oggi assolutamente per certi aspetti incomprensibile, no? Però questo ci fa comprendere, cioè vedete, tra questo, ecco, e andare in giro su YouTube e vedere alcune cose, alcune aberrazioni spaventose che accadono, cioè in alcune liturgie, che voglio sperare, voglio augurarmi, siano fatti ed episodi sporadici, insomma, creati ad hoc per farci lo scoop alla YouTube. Quindi capite, cioè tra un senso di riverenza alla liturgia così grande da dire è talmente sacra che io, che sono la massima autorità religiosa sulla terra, non ci posso mettere le mani. Perché questa è al di sopra di me. Da lì a che un povero prete, che non è certamente il Papa, a volte con quello che si vede in giro, io mi ricordo, mi hanno linkato alcune cose che fanno davvero venire la pelle d'oca, cioè che si sente autorizzato a mettere in mezzo alla strada la liturgia, non vorrei insomma adesso fare polemica, alcune cose, c'è uno che c'è un link che ha fatto il giro di tutto il web di un povero sacerdote, preghiamo per lui chiaramente, no? Perché magari avrà anche pensato di fare una cosa carina, ma si è messo a cantare ricchi e poveri ballando alla fine di un matrimonio, insomma. Tradire non sono Dio che posso mettere il nome di San Giuseppe nella liturgia e mettere ricchi e poveri come canto finale, dico, santo cielo, no? Quando uno vede queste cose dice, allora, se uno deve proprio esagerare, è meglio l'esagerazione di Pio IX o è meglio questa esagerazione? Beh, è ovviamente una domanda retorica, no? Ecco, chiusa parentesi. Ecco, anche perché hanno fatto bene poi a metterci il nome di San Giuseppe. Ho raccontato questo aneddoto per fare che quanto Pio IX era devoto a San Giuseppe, e quindi se non avesse avuto questa riserva del cuore, motivata da un senso alto dell'importanza della liturgia, avremmo avuto San Giuseppe dentro la messa un secolo prima. Questo per far comprendere un pochino com'era lo spirito. Parte di questo spirito, secondo me, va recuperato, ecco, almeno in parte. Senza fare questioni di principio, perché anche con la liturgia celebrata nella nuova forma e anche in lingua volgare, se c'è quel minimo di umiltà, di ars celebrandi di cui parlava tanto Benedetto XVI, di rispetto verso nostro Signore, di cura dei gesti, del silenzio, di una certa qualità dei canti, insomma, eccetera. Si può tranquillamente fare una celebrazione degnissima. Certo, se si interpretano alcune riforme che sono state fatte come una sorta di autorizzazione implicita alla creatività selvaggia e al tutto è possibile, dopo si ingenerano reazioni contrarie, ripeto, eccessive da parte di certi ambienti, che però sono in certo modo fomentate da questi atti. Veramente Benedetto XVI, quando scrisse il motu proprio Summorum Pontificio, parlò di deformazioni liturgiche e abusi al limite del sopportabile. Un papa che usa un'espressione di questo genere, i papi sapete sono sempre molto ponderati, molto, molto pacati, no? Non è il prete di periferia che ogni tanto ne spara qualcuno, perdonatemi insomma il termine, no? Un papa cerca sempre di conservare un certo stile, un linguaggio pacato, insomma, una visione oggettiva, equilibrata delle cose. Per usare un'espressione di questo genere, un papa, Vuol dire che le cose che ha visto o che gli risultano, perché poi alla Santa Sede, grazie a Dio, le segnalazioni arrivano, arrivano, arrivano. Pensate che soltanto con le storie delle comunioni in mano uscì un articolo, mi ricordo benissimo, ce l'ho archiviato nel 2001 su Panorama con la denuncia del commercio delle ostie consacrate che avveniva in Giappone perché c'erano i turisti che andavano a Roma alla messa di San Pietro, prendevano la particola, se la mettevano in tasca e poi tornavano a casa col souvenir. C'ho la particola, questa è l'ostia consacrata alla messa del Papa. Qualcun altro le vendeva online e qualcuno. Capite? Quindi, se sono successe storie di questo genere, ecco, perdonatemi la parentesi, però diamo sempre come se un taglio un po' edificante a queste nostre conversazioni. Ecco, penso che bisogna recuperare un po', perché forse se prima si cedeva forse un po' troppo, però non lo so se si può dire questo. Da una parte, sicuramente oggi ci sono degli eccessi contrari, e tra i due eccessi sicuramente è molto più dannoso e pericoloso quello che assistiamo, quello a cui assistiamo nei tempi moderni. Comunque, per completare il cerchio della devozione grande di Pio IX, del Beato Pio IX a San Giuseppe, dobbiamo dire che in un breve, chiamato Inclitum Patriarcham, chiaramente riferito a San Giuseppe, il Patriarcham, inclito in latino è un'espressione quasi intraducibile, no? Vuol dire, come dire, grande, indomito e quasi per certi aspetti straordinario, ecco, è un termine quasi intraducibile in italiano, no? Il 7 luglio 1871 dice, cito testualmente: l'illustre patriarca, il beato Giuseppe, venne scelto da Dio preferendolo a qualsiasi altro santo, perché sulla terra fosse il castissimo e vero sposo dell'Immacolata Vergine Maria e il padre putativo del suo unico figlio. In tutte le puntate precedenti abbiamo ampiamente sviscerato questi due requisiti che sono il fondamento dell'eccellenza assoluta di San Giuseppe su tutti i santi. Riprendo. Al fine di permettere a Giuseppe di compiere alla perfezione una missione così sublime, lo colmò di favori assolutamente singolari. Quindi ricordate anche quando abbiamo visto i cosiddetti privilegi di San Giuseppe, il fatto che sarebbe stato confermato in grazia fin da quando era piccino. Qui abbiamo un fondamento magisteriale a queste affermazioni, no? Che abbiamo ricordato a suo tempo essere delle ipotesi teologiche fondate però talora su affermazioni di santi di grosso e dottori di grosso calibro, no? Lo colmò di favori assolutamente singolari. Singolari vuol dire che ce l'ha avuto lui e nessun altro. Ecco, quindi, e questo comunque è un principio generale, e qui vi parlo, diciamo così, da tra virgolette teologo, perché dovrei esserlo con gli studi che ho fatto. San Tommaso d'Aquino dice nella Summa Teologiae essere a principio assolutamente assodato che Dio dà sempre le grazie proporzionali e adeguate al tipo di missione che una persona deve compiere. Quindi da parte del Padre Eterno noi siamo sempre ben attrezzati a compiere la nostra missione. Io lo sono da compiere da prete, il vescovo è compiuto da vescovo, il papa è compiuto da papa, un grande santo è compiuto da grande santo, un fondatore di ordini religiosi per fare questo qui, una coppia di sposi per essere santi coniugi e santi genitori, San Giuseppe per essere il padre putativo di Gesù Cristo e lo sposo della più grande creatura che Dio abbia mai creato. Quindi questo è indubbio, quindi questa affermazione poggia su una verità teologica comune, ecco, quindi. E pacifica. Riprendo la citazione: per questo è giusto che la Chiesa Cattolica, ora che Giuseppe si trova coronato di gloria e di onore in cielo, lo circondi di magnifiche manifestazioni di culto e lo veneri con intima e affettuosa devozione. Espressioni forti, magnifiche manifestazioni di culto dette da chi, per riguardo alla santità del culto, ha omesso e non si era sentita di mettere il nome durante il canone della messa, e lo veneri con un'intima e affettuosa devozione. Poi c'è un altro grandissimo papa, a mio modestissimo parere, che è Leone XIII. Ahimè, non ancora beatificato, invito tutti quanti a pregare per questo, perché io penso che Leone XIII, il Papa che è stato, diciamo così, in mezzo tra due giganti che sono Pio IX e Pio X, non abbia molto da invidiare al suo predecessore e al suo successore. È stato un grandissimo Papa, devotissimo della Madonna, soprannominato il Papa del Rosario, che ebbe modo di arricchire di indulgenze, di rilanciare attraverso il suo esempio personale e anche importantissimi documenti magisteriali, devoto molto alla Madonna, conseguentemente, necessariamente, oseremmo dire, altrettanto devoto a San Giuseppe. Scrisse un'enciclica nel 1889, la Quamquam Pluries, in cui afferma, e di nuovo cito: "Le ragioni per le quali il Beato Giuseppe deve essere considerato speciale patrono della Chiesa", quindi ovviamente ribadisce quanto detto da Pio IX, "e per le quali a sua volta la Chiesa attende moltissimo dalla sua tutela e patrocinio, nascono principalmente dal fatto che egli è lo sposo di Maria e il padre putativo di Gesù". Attenzione, spiegazione del pensiero. Giuseppe ai suoi tempi fu il custode legittimo e naturale e capo e difensore della Sacra Famiglia. È pertanto conveniente e sommamente degno del Beato Giuseppe, attenzione, che come allora era solito tutelare santamente e in ogni momento la famiglia di Nazareth, così protegga e difenda con il suo celeste patrocinio la Chiesa di Cristo. Attenzione, qui io vorrei aprire una piccola parentesi e anche proporre, diciamo, anche un po' una lettura simbolica della figura di San Giuseppe, quindi qui esulo dal testo e in parte condivido alcune mie riflessioni. Allora, anzitutto, guardate il fondamento di questo patrocinio universale della Chiesa. Allora, chi era la famiglia di Nazareth? La famiglia di Nazareth era la famiglia di Dio per eccellenza, perché c'era Dio in persona e la Madonna. D'accordo? Quindi, che cos'è la Chiesa? La Chiesa è la famiglia di Dio, perché è il luogo dove Dio raduna i suoi figli e si diventa figli di Dio in senso stretto col battesimo e non altrimenti. Quindi, come ogni famiglia, ci deve essere un capo famiglia e questo capo famiglia è San Giuseppe. Ricordate che San Giuseppe ha fatto il capo famiglia della famiglia di Nazareth, ne abbiamo parlato a suo tempo, pur essendo il più piccolo di tutti e tre, perché Gesù è il più grande di tutto e dentro la famiglia di Nazareth era il più piccolo, perché stava sottomesso ai genitori. La Madonna è più piccola di Gesù, ma è più grande di San Giuseppe e era sottomessa a San Giuseppe. San Giuseppe, per certi aspetti, è il più piccolo di tutti e era a capo di tutto. Quindi vedete, quando Gesù dice gli ultimi saranno i primi e i primi saranno gli ultimi, lo dimostra in continuazione, no? E quindi questo è, diciamo, il primo pensiero che non è altro che l'elaborazione, la spiegazione di questa intuizione di Leone XIII, che non è nuova quanto al contenuto, ecco, ma è, come dire, esplicitata quanto alla ratio, diciamo così, no? Quindi alla motivazione. E questo come primo aspetto. Ora proviamo un attimo a riflettere un po' su questo punto, no? Voi sapete che nella Sacra Scrittura e anche nel Magistero della Chiesa, la Madonna, proprio la Madonna, la figura di Maria Santissima, è considerata come la figura per antonomasia, anzi il typos, viene detto in greco, della Chiesa, Lumen Gentium, paragrafo 63. Di questo sono particolarmente competente perché è stato uno degli argomenti che ho approfondito nella mia tesi dottorale in teologia. Cosa vuol dire la Madonna è tipo della Chiesa? Cioè che tutto ciò che la Chiesa è, ha e fa è stato fatto dalla Madonna prima, di più e meglio. Però ciò che la Chiesa è e deve essere agli occhi di Dio deve essere contemplato in Maria, cioè la Chiesa da sola, la Madonna, scusate, da sola come singola è ciò che la Chiesa è come corpo. D'accordo? Allora, quindi la Madonna rappresenterebbe la Chiesa. La Chiesa, noi sappiamo benissimo che è chiamata dai Santi Padri madre, perché la Chiesa è madre feconda, perché continuamente genera dei figli, genera figli, genera figli, genera figli. Come lo fa? Attraverso i sacramenti. Chi sono questi figli? Sono, tra virgolette, dei piccoli Gesù, no? E come si diventa figli di Dio? Attenzione, attraverso i sacramenti. Quindi la motivazione di essere della Chiesa è quella sacramentale. Noi diventiamo veramente figli di Dio. Qui attenzione. Ecco, io apro una nuova piccola parentesi, dopo rientriamo nei ranghi, quindi ricordate, la Madonna simboleggia la Chiesa e Gesù simboleggia tutti i figli della Chiesa, coloro che attraverso la Chiesa diventano figli di Dio. Attenzione che figli di Dio in senso stretto, perché qui oggi stiamo in un contesto che ogni tanto se ne sentono un po', sono soltanto i battezzati, eh. Cioè, quando noi diciamo che ogni uomo è figlio di Dio, dobbiamo fare attenzione perché questa è un'espressione analogica. Non, capite? Altrimenti andiamo a concepire, come dire, la cosiddetta fratellanza universale come facevano gli illuministi o i rivoluzionari francesi, Liberté, Égalité, Fraternité, o come fanno oggi, ahimè, i massoni. Che predicano e sbandierano la fratellanza universale sul fondamento del fatto che tutti gli uomini sarebbero fratelli. Allora, ripeto, questa espressione va capita perché è un'espressione molto analogica, perché l'unica da un punto di vista ontologico, come dire, il fondamento della fratellanza universale è il fatto che tutti noi uomini siamo creati da Dio, la nostra anima è creata da Dio, quindi ogni essere umano in quanto tale è creato da Dio, attenzione, ma essere creato da Dio non vuol dire essere suo figlio in senso stretto, perché figli di Dio sono quelli che hanno la grazia, cioè quelli che hanno quella particolare disposizione soprannaturale infusa che li rende simili a Dio per mezzo della carità. Questa grazia, che è la grazia santificante, non c'è se non ci sono i sacramenti. Ed è solo in presenza di quei sacramenti che io, quando dico durante la messa, fratelli e sorelle carissimi, quella non è una metafora, quella è una realtà ontologicamente verissima. Vera tanto, cioè questa, sul piano spirituale, quella realtà è vera tanto. Quanto sul piano materiale è vero che mio fratello e mia sorella, Elena e Gianluigi, sono miei fratelli di carne. Capite? Perdonatemi, non è ovviamente un caso che dico questo, perché nello spirito dell'accoglienza universale, Gesù vuole che noi accogliamo e amiamo ogni uomo, l'ho detto durante la predica di domenica scorsa, ed è palese anche dalle letture, per esempio dalla pecorella smarrita, uno che lascia 99 pecore per andare a cercare una sola, cosa vuol dire? Vuol dire che anche una sola anima agli occhi di Dio ha un valore infinito. Quindi che Dio, per Dio noi non siamo dei numeri, siamo una realtà unica e ripetibile. Questo è tipico di ogni essere umano in quanto essere umano. Però, perché se io dicessi che tutti gli uomini sono già figli di Dio, allora la Chiesa non serve. Perché che cosa la battezza a fare una persona? Punto interrogativo. Col battesimo cosa succede? Che ci vengono tolti i peccati, se un bambino è soltanto peccato originale, ma comunque vengono tolti i peccati, e ci viene infusa la grazia santificante che ci fa figli di Dio e quindi membri della Chiesa, famiglia di Dio. Se siamo già tutti figli di Dio, anche fuori della chiesa, che ci battezziamo a fare? Guardate che la gente comune, io sto parlando, non so adesso chi sono gli ascoltatori, alcune cose le capisce, quindi io sono un pochino scettico, anche quando qualche uomo di chiesa, in qualche uscita pubblica, fa delle uscite a slogan giornalistico, d'accordo? Parlando di concetti che andrebbero ben spiegati per essere ben compresi. Se tu li butti come frase ad effetto, Guardate, questo io comincio ad averne tantissimi riscontri, perché la gente mi interpella anche su Facebook, cade in confusione, perché poi i media fanno rimbalzare quella frase ad effetto in un certo modo, con la conseguenza che si crea confusione. Cioè, questo discorso, il tema della fraternità e della figliolanza è un discorso delicato che va affrontato a vari livelli. Cioè, io sono fratello di tutti in un certo senso e sono fratello dei membri della Chiesa Cattolica in un altro senso, che è quello più stretto e più vero. Io ci ho messo 5 minuti per dirvi queste cose qui e so anche pochi, no? Non posso sparare uno slogan e poi trovarlo in prima pagina del giornale con il commento di giornalisti che non capiscono niente, perdonatemi, la franchezza delle cose della fede, e che travisano capendo fischio per fiasco, cioè danno di questo slogan quasi sempre la lettura laico-massonica. Io umilmente, da povero prete, penso che bisognerebbe avere un pochino più di astuzia, insomma, pastorale, per non dare, insomma, adito. Evidentemente nessuno dei pastori della Chiesa che fa uscite un po' così, io non voglio neanche lontanamente pensarlo, che travisi alcune cose, altrimenti non sarebbero degni del ruolo di pastore della Chiesa. Però sicuramente non basta che tu una cosa non la pensi, devi stare anche attento che i modi con cui tu la trasmetti, la comunichi o chi ti ascolta siano possibilmente non equivoci. In mezzo a questo nostro mondo multimediale, che pum, stato di Facebook, vrum, quattro frasi, cioè succede un polverone, 4.000 commenti, eccetera, penso che su alcune questioni, pur essendo importantissimo essere pienamente inseriti nei mezzi di comunicazione, bisogna avere un po' più di prudenza, di intelligenza pastorale, chiamiamola così. Bene, andiamo avanti con i papi perché io volevo andare ulteriormente avanti, ma vedo che il tempo corre, non abbiamo ancora molto tempo a disposizione, quindi vorrei chiudere questo capitolo. Veniamo a Pio XI. Pio XI anche un papa non molto conosciuto, ma ha lasciato diverse chicche alla Chiesa Cattolica. Io invito gli ascoltatori che non lo conoscessero a leggere con molta attenzione l'enciclica Gasti Connubi, che io faccio sempre leggere agli sposi, e che sembra scritta ieri con delle problematiche, delle soluzioni pastorali anche in relazione alla santità del matrimonio che sembrano scritte ieri. Allora, Pio XI scrisse il 19 marzo del 1935: Giuseppe è colui che tutto può vicino al Divino Redentore e alla sua Divina Madre. Bellissimo, tutto può, in una maniera e con un'autorità che superano quelle di un semplice depositario. Bellissima questa immagine. E mi dà la possibilità, non ho chiuso la metafora di prima, il mio pensiero, me ne sono ricordato adesso. Autorità. Allora, abbiamo visto che San Giuseppe ha autorità sulla Madonna e su Gesù ed è stato fatto patrono della Chiesa. Quindi la Madonna simboleggia la Chiesa, Gesù i figli di Dio nati dalla Chiesa. Quindi a me fa pensare San Giuseppe, sapete a chi? Ai membri della gerarchia della Chiesa, tutti, dal Papa fino all'ultimo prete, perché i membri della gerarchia della Chiesa, se ci pensate, hanno autorità sulla Chiesa perché possono governarla e la Chiesa è molto più grande di loro. Loro non sono più grandi della Chiesa, eh? Tant'è vero che devono essere servi della Chiesa. Il Papa è servo dei servi di Dio. Hanno autorità sui sacramenti, addirittura sull'Eucaristia. Chi è che amministra i sacramenti? I ministri. E hanno autorità sui figli che dalla Chiesa nascono. Quindi io penso che noi consacrati, noi preti e tutti, dovremmo molto imparare da San Giuseppe. Sapete che cosa imparare? A non spadroneggiare sulla Chiesa, perché San Giuseppe ha esercitato la sua autorità sulla Madonna. Ma come però? Ha esercitato la sua autorità su Gesù, ma come? In una maniera assolutamente sublime, in una maniera assolutamente divina. L'autorità non è la dittatura, non è l'autoritarismo. E deve essere, come dire, vissuta e concepita con timore e tremore. perché si tratta di cose delicatissime. Ecco, quindi autorità che superano quelle, quindi l'autorità di San Giuseppe è grandissima, ed è grandissima anche l'autorità dei ministri di Dio e della Chiesa. In un'altra circostanza, 12-19 marzo 1938, Pio XI scrive: l'intercessione di Maria è quella della madre, e non vediamo che cosa il suo divino figlio potrebbe negare a tale madre. E infatti nulla nega, lo sappiamo dalla tradizione, Dio alla Madonna, nulla. Ora, l'intercessione di San Giuseppe è quella dello sposo, quella del padre putativa e quella del capo famiglia. Attenzione a cosa dice Pio XI: non può non essere onnipotente, poiché niente possono negare Gesù e Maria a Giuseppe, ai quali egli consacrò tutta la sua vita e al quale realmente furono debitori di tutti i mezzi della loro esistenza terrena. E io aggiungo, analogia per estensione su quello che ho detto, che se questo è vero, è anche vero che un santo prete, un santo vescovo, un santo papa ottiene da Dio tantissime grazie e Dio gliele dà se esplica degnamente però il suo compito, come San Giuseppe, perché se si rende indegno di grazie ne arrivano di meno. Comunque questa espressione attribuita a San Giuseppe è forte, cioè la Madonna è chiamata l'Onnipotente per grazia dalla tradizione, lo sappiamo, no? Anche il beato Bartolo Longo nella supplica alla Madonna di Pompei chiama così la Madonna, e Pio XI estende questo titolo sulla base di queste motivazioni a San Giuseppe. Ora, un altro Papa, un altro Benedetto, Benedetto XIII, abbiamo visto che ha iscritto il nome di San Giuseppe nelle Litanie dei Santi. Benedetto XV, successore, no, antecessore di Pio XI, fu il successore di San Pio X, introdusse il nome di San Giuseppe nell'invocazione dopo l'esposizione del Santissimo Sacramento. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, è stata introdotta da Papa Benedetto XVI, XV, scusate. Pio XII, questo l'abbiamo visto, nel 1955, designò il 1° maggio come festa di San Giuseppe lavoratore. Festa che adesso è rimasta, ve l'ho accennato la volta scorsa, qualche volta fa, però anche qui, ahimè, come detto già prima, Pio XII l'aveva messa come festa di prima classe, quindi con una straordinaria solennità. Adesso è diventata memoria facoltativa e abbiamo lasciato ai sindacati, non sempre di ispirazione cattolica, il monopolio di una festa per noi importantissima. Io dopo farò sicuramente degli interventi su, quindi sull'importanza del lavoro nella santificazione di cui San Giuseppe è maestro, raccomandando tutti gli operai del mondo al suo patrocinio. Giovanni XXIII, qui siamo ormai addirittura d'arrivo, il beato Giovanni XXIII, sapete che era molto devoto a San Giuseppe, lo nominò patrono del Concilio Vaticano II, che egli indisse, e anche stabilì che si includesse il suo nome nel canone della Messa. Quindi quello che non ebbe il coraggio di fare il beato Pio IX lo fece il beato Giovanni XXIII, introducendo subito dopo, nel canone romano, subito dopo, in comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo la Beata e Sempre Vergine, la gloriosa Sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, e San Giuseppe, il suo castissimo sposo. Paolo VI, infine, abbiamo così poi terminato, parlò di San Giuseppe come un uomo, no, come un uomo povero, onesto, laborioso, ma dotato di un'insondabile vita interiore, che ha speso completamente la vita al servizio di Maria e di Gesù, quindi affrontando responsabilità, lavori, rischi e affanni e spendendosi completamente per la vita della Santa Famiglia. Ecco, in una parola, scrisse un'enciclica, e qui passiamo a Giovanni Paolo II, non c'è la citazione, ma la Redemptoris Custos, se non ricordo male, la scritta Giovanni Paolo II, ultimo Papa, San Giuseppe, oh signore, spero che sia Giovanni Paolo II, dobbiamo verificarla. È lui. Redemptoris Custos, Giovanni Paolo II. Ecco. meno male, grazie Antonio, mi aiuta perché ogni tanto l'Alzheimer comincia a farsi sentire. L'ultima citazione, San Giuseppe è l'uomo giusto che porta con sé tutto il patrimonio dell'antica alleanza. Questa è una delle espressioni della Redentoris Custos. Io penso poi, la butto lì in un momento seguente, io la lessi a suo tempo la Redentoris Custos, per questo che mi sembrava, però non mi fido più della mia memoria un po' labile. Chi lo sa, forse sarebbe il caso di dedicarci magari in un futuro qualche puntata, perché è il documento magisteriale, penso, più recente, e come tutti quanti quelli scritti da Giovanni Paolo II sono sempre molto densi, molto molto molto ricchi di contenuti e di dottrina. Comunque per oggi penso che possiamo fermarci qui.